Europa 24. Sull'inflazione c'è meno da essere ottimisti, ma la BCE ha numerosi strumenti per far risalire i prezzi ancora lontani dal 2%. Mario Draghi questa mattina a Davos è tornato a parlare delle politiche dell'Eurotower, pronta a marzo a nuove misure a sostegno dell'economia. E sull'Italia ribadisce c'è stata un'errata interpretazione della lettera inviata dalla BCE. C'è stato un errore, i questionari volevano solo vedere come le banche stanno gestendo i crediti in sofferenza, niente più di questo, sottolinea Draghi. Alle banche non chiederemo ulteriore capitale o accantonamenti. Le stime sui costi di uno stop al trattato di Schengen, che metterebbe fine alla libera circolazione di cittadini e merci in Europa, sono impressionanti, ha detto l'alto rappresentante europeo per la politica estera e la sicurezza Federica Mogherini, tanto più in quanto l'Europa è in una difficile fase di ripresa economica. L'Unione Europea mette sotto esame le frontiere e come primo passaggio comincia a pensare alla creazione di una guardia comune che potrà mandare i suoi uomini a verificare l'efficacia dei controlli. I dettagli sono tutti da definire. La Commissione ha scritto un testo, una bozza, che sarà esaminata per la prima volta lunedì dai ministri degli interni nell'incontro informale di Amsterdam. Si corre contro il tempo per evitare che con l'arrivo della primavera il flusso di migranti torni ad avere numeri impressionanti, perché dalla guerra e dalla carestia hanno continuato a fuggire migliaia anche in questo freddo inverno. Solo a gennaio 35.000 rifugiati sono partiti dalla Turchia, per questo si pensa a interventi su più livelli, un piano di aiuti, circa 3 miliardi di euro da mandare alla Turchia per fermare il flusso, poi un controllo più severo del traffico clandestino nel Mar Egeo e infine lavorare per avere accoglienza dignitosa e certezza nell'identificazione e richiesta d'asilo, tema questo su cui siamo in pieno dibattito perché si discute sull'applicazione o no di Dublino, che stabilisce che l'asilo viene dato dal paese d'arrivo. Se poi le possibilità espresse fin qui non dovessero funzionare, si pensa anche alla sospensione di Schengen, cosa prevista dall'articolo 26 del codice quando parla di possibilità di introdurre controlli alle frontiere interne fino a 2 anni in caso di minaccia sistemica e persistente alle frontiere esterne. A dicembre Bruxelles non aveva escluso la possibilità di farvi ricorso in futuro e secondo fonti europee la questione si riporrà al summit di febbraio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Parlamento europeo ha posto un veto sul progetto che permetterebbe agli alimenti per la primissima infanzia di continuare a contenere quantità di zucchero fino a 3 volte superiori ai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A favore della riduzione dello zucchero, Pier Nicola Pedicini del Movimento 5 Stelle. La Commissione ammetteva il 30% di zuccheri liberi. Invece della proposta che noi abbiamo appoggiato, che è la proposta di uno dei Verdi, che si chiama Taylor, si introduce la raccomandazione, cioè i valori che hanno raccomandato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè 10% dell'apporto energetico complessivo. Il valore invece raccomandato è addirittura un valore fissato a 5% dell'apporto calorico energetico complessivo. Si tratta di motivazioni demagogiche, la replica di Elisabetta Gardini dei Popolari, partito che ha invece votato contro. C'è veramente una demagogia che è veramente brutta, perché si strumentalizzano le preoccupazioni giuste delle persone e il cittadino non può sapere cosa c'è dietro a tutto questo. Secondo i limiti che questi vorrebbero mettere, che sono massimali comunque, se noi schiacciamo una banana o grattugiamo una mela, daremmo al bambino qualche cosa da mangiare che supera questi limiti. Quindi siamo nella piena demagogia. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.